Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È il 25 febbraio del 2007. Al Kodak Theater di Hollywood a Los Angeles sta per essere assegnato l'Oscar alla carriera. È un premio particolare. A riceverlo, infatti, è uno dei musicisti e compositori italiani più famosi al mondo. Ladies and gentlemen, Ennio Morricone. Ennio Morricone ha ottenuto nella sua lunga carriera 5 nomination agli Oscar, ma in nessun caso è arrivata la prestigiosa statuetta. Ora, finalmente, la Mecca del cinema gli riconosce il giusto tributo. A consegnargli il premio, Clint Eastwood. E lui, emozionatissimo, ringrazia. Thank you. Thank you very much. Voglio ringraziare l'Accademia per questo onore che mi ha fatto dandomi questo ambito premio. Però voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno voluto questo premio per me fortemente e hanno sentito profondamente di concedermelo. I registi che Morricone ringrazia sono alcuni tra i più grandi della storia del cinema. Brian De Palma, Elio Petri, Giuseppe Tornatore, Terrence Malick. Si può dire però che ce n'è uno in particolare grazie al quale Ennio è qui stasera. È un incontro che fa decollare la carriera del grande musicista italiano fino all'Oscar. Un regista che deve parte della sua fama a propria volta all'incrocio del suo destino con quello di Morricone. Scopriremo tra poco chi è, anche se la presenza sul palco del Kodak Theater del grande Clint Eastwood è un indizio fondamentale. Intanto scopriamo insieme qualcosa di più su Ennio Morricone. Lavorare con Ennio è semplicemente fantastico. È come se facesse recitare la musica, facendola diventare un personaggio del film. È un genio. Le parole che avete sentito vengono pronunciate niente meno che da Brian De Palma, che ha collaborato con Morricone agli Intoccabili, di cui Ennio ha scritto la straordinaria partitura. L'uomo che De Palma considera un genio è originario di Arpino, nella provincia laziale di Frosinone. È un piccolo comune, ma ha dato i natali a uomini importanti come Cicerone o come, in epoca più recente, Umberto Mastroianni, zio dell'attore Marcello, scultore e artista. Forse è la grandezza di questi illustri concittadini che lo fa sembrare un talento predestinato. Fatto sta che Ennio, sin da giovanissimo, sembra eccellere nella musica. Mi fa un po' strano dire che io a 6 anni ho cominciato a comporre. Però è così, mio padre mi insegnò la chiave violino, eravamo in villeggiatura, io mi mettevo a scrivere delle cose, ma delle cose erano delle sciocchezze enormi. Mi ricordo che erano delle cacce che poi strappai, delle cacce come le sentivo nei dischi o alla radio. Forse ero rimasto colpito dal francocacciatore di Weber, dall'ouverture del francocacciatore di Weber. Qualche anno dopo, Morricone si iscrive al Conservatorio Santa Cecilia a Roma. Conseguirà subito 2 diplomi, tromba e strumentazione per banda. Il musicologo Sergio Miceli spiega così l'origine della sua sensibilità musicale. Ennio Morricone ha un'origine proletaria, il padre suonava la tromba nei locali notturni, in orchestre di intrattenimento, la famiglia mi risulta vivesse soltanto del mestiere del padre, tant'è vero che ci fu un periodo in cui il padre si ammalò e Ennio, ragazzetto, lo dovette sostituire e andare a suonare nottetempo al suo posto. Subito dopo la guerra, quando ha già 18 anni, Morricone si iscrive al corso di composizione tenuto dal maestro Goffredo Petrassi, uno dei più grandi compositori italiani di musica classica contemporanea. In questa dura fase di studi, Morricone alterna i seri studi al conservatorio di giorno alle serate nei locali. È qui che prendono origine la sua duttilità e la sua varietà, particolari fondamentali della sua musica, come dice ancora Sergio Miceli. Era ancora studente di Petrassi ed è cominciata per lui una doppia vita, nel senso che di giorno faceva il serissimo studente di composizione al Conservatorio di Santa Cecilia e nelle ore libere o suonava la tromba nei locali per sostituire il padre o cominciava a fare degli arrangiamenti per la nascente industria discografica. Così l'ingresso come arrangiatore nella musica leggera per Morricone porta immediatamente i primi successi, tra questi la prolifica collaborazione con Edoardo Vianello. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Gli anni a cavallo tra i 50 e i 60 sono un periodo eccezionale per gli artisti italiani della musica, del cinema e della nascente televisione. A fatica l'Italia si getta alle spalle le sofferenze della guerra, intraprende la dura via della ricostruzione, vive le prime gioie del boom economico. Dopo il ventennio di forzato silenzio, l'intera nazione desidera far emergere la propria voce, anche quella più frivola e leggera. Per la domanda da 2 milioni e 560 mila lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o Raddoppia, il professor Degoli di Carpi. È l'Italia dei telequiz, dei gruppi radunati davanti alla televisione, dei primi cambiamenti del sentire comune e dei principi morali che porteranno poi alla rivoluzione culturale della fine degli anni 60 e alla modernità. Questo scenario Ennio Morricone lo vive dalla sua città, Roma. La sua febbrile attività lavorativa tra concerti, arrangiamenti e studio si intreccia nella capitale italiana con quella dolce vita che Fellini descriverà qualche anno dopo. In un clima di ottimismo generale tra Via Veneto e il Piper, artisti, intellettuali e borghesi creano un clima fervido di eccitazione e di creatività. Una delle arterie pulsanti di questa instancabile frenesia, indubbiamente, è Cinecittà. You won't admit you love me, and so how am I ever? La Hollywood sul Tevere è il centro del cinema europeo, l'unico fulcro di produzione cinematografica in grado di reggere l'urto hollywoodiano. Qui il cinema italiano produce i suoi grandi capolavori, i grandi film di Fellini, di Antonioni, di Luchino Visconti. Se in quegli anni il cinema italiano regge il passo degli americani, il merito non è solo di queste grandi produzioni. Fuori dalle vetrine dei grandi festival, infatti, c'è un altro cinema di puro intrattenimento, che però riempie le sale e fa cassetta sempre e comunque. E il naso, dove me lo metti? Non lo so, dove vuoi, dimmi tu dove lo devo mettere, io lo metto. No, parlo del naso mio. Ah, del tuo naso, ma lo sai che io l'adoro, ti dà una personalità. Sì, l'adori, allora non sono più una nasona? Ma non dire sciocchezze, ma che nasona, ma ci mancherebbe altro. Qui se c'è un nasone sono io, guarda. E soprattutto la commedia all'italiana, varia e stratificata a fare da traino economico al cinema italiano. E proprio nell'ambito della commedia, Morricone fa il suo esordio come compositore. A poco diventai il compositore per la televisione, per la radio, per il teatro, per tante cose, e poi arrivai a poco al cinema. È il 1961. Il film è Il Federale di Luciano Salce con Ugo Tognazzi. Attenzione, attenzione, Arcovazzi prima al comando. Arcovazzi prima al comando. Barbareschi, prendi sul comando della baracca. Signor sì, ma sta bruciando. Camerata! E tre giri del cortile di corsa. Marsch! Il rapporto tra Morricone e il cinema nasce dopo un fallimentare ed effimero contatto tra il compositore e la televisione. Nel 1958, per merito dei successi che andava ottenendo come arrangiatore di musica leggera e come musicista nei locali, ottiene il posto di assistente musicale in Rai. È un posto prestigioso, ma Morricone si licenzia il giorno stesso, quando scopre che per politica interna all'azienda mai gli sarebbe stato concesso di utilizzare anche le sue musiche per i programmi Rai. Qualche tempo dopo arriva la chiamata di Cinecittà, sull'onda di un altro grande successo che Ennio compone per la musica leggera e per Polanca. Domani prendo primo treno, vero a trovarti, se sapessi quanta voglia ho d'abbracciarti, non sai se tocca ti dirò che mai più ti lascerò. La collaborazione con il mondo del cinema, con Luciano Salce in particolare, prosegue anche negli anni successivi. La Voglia Matta e La Cuccagna vengono infatti musicati sempre dal compositore romano, che lavora negli stessi anni anche con Camillo Mastrocinque per Diciottenni al Sole e I Motorizzati. Nel 1963 Morricone scrive la partitura di I Basilischi di Lina Wertmüller e soprattutto di Duello nel Texas, noto anche come Gringo, di Riccardo Blasco. È il primo western all'italiana. Il vecchio West è un'ambientazione suggestiva che ha sempre affascinato scrittori e narratori. Le storie western ambientate nel XIX secolo si sono sempre collocate presso la frontiera ovest degli Stati Uniti, un confine in continuo movimento, spostato dalle invenzioni del telegrafo e soprattutto dalla ferrovia. Il cinema, fin dalla sua nascita, ha avidamente fatto proprie queste storie leggendarie, epiche e romantiche. Si può dire quasi che il cinema e il film western siano nati insieme. E fino agli anni 50 questo binomio è fertile e stabilissimo. John Ford e Howard Hawks, in particolare, definiscono i canoni del genere. In un universo narrativo spesso occupato anche dalla guerra di secessione tra gli stati del nord e del sud, si muovono come cavalieri erranti cowboy solitari, con tanto di cinturone, pistola, cappello e cavalli. Fra indiani, deserti e spazi immensi, la violenza è un fatto quotidiano, ma regna un codice morale di ferro, rigido e inflessibile, che spesso si sostituisce alla legge. Joe, ti dichiaro in arresto. Buona idea. Verso la fine dei 50 questo modello va in crisi. La situazione sociale che va delineandosi negli States con le difficoltà del dopoguerra, la ricostruzione da affrontare, la guerra fredda e le prime turbolenze giovanili smontano la presa che il western ha sul pubblico americano. Il genere va verso un binario morto e necessita di reinventarsi. Anche in Europa e anche in Italia si tenta di innestare qualcosa di nuovo nel genere per rivitalizzarlo. E Duello nel Texas, musicato da Morricone, cerca proprio queste novità, senza riuscire a imporsi. Il western in Italia prende il posto di un genere che era fortemente radicato nella tradizione del cinema di intrattenimento del nostro paese, il cosiddetto peplum. Ce ne dà una definizione niente meno che Martin Scorsese, grande regista americano e grande appassionato di storia del cinema italiano. Il peplum è il film storico in costume di ambientazione romana, greca o biblica. Prende il suo nome dal peplo, una tunica dell'antica Grecia che veniva utilizzata spesso in questi film. È un genere tutto italiano, che si diffonde già negli anni 20 e 30, noto anche come cinema dei forzuti, per la ricorrenza di personaggi come Ursus, Maciste, Ercole. Il western cerca di inserirsi in questo territorio, di raccogliere la tradizione epica del peplum. Anche in Italia, infatti, il mutamento del contesto sociale e le trasformazioni in atto rendono difficile la prosecuzione del successo di un genere come il colossal in costume, che piace sempre meno ai giovani. Il western dovrebbe prenderne il posto e parlare un linguaggio più diretto. Almeno in questa direzione vanno i primi tentativi, che non colgono però nel segno. Chi riesce realmente a effettuare questa operazione di fusione tra i generi e a rilanciare la passione per il western è un regista che viene proprio dal peplum. Ha girato infatti nel 1961 Il Colosso di Rodi. È un figlio d'arte il regista di cui stiamo parlando. Il padre, Roberto Roberti, infatti, era un discreto regista dell'epoca del muto. Bob Robertson, infatti, è lo pseudonimo che il nostro secondo personaggio di oggi utilizza per firmare i suoi primi film. Dopo Il Colosso di Rodi, però, il secondo film sarà un western. E lo farà proprio con Ennio Morricone, incontrato anni prima sui banchi delle elementari. Nel frattempo, Morricone arriva a un clamoroso successo commerciale, scrivendo la musica per un testo che Maurizio Costanzo scrive per Mina. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Destini incrociati. Oggi, a Destini Incrociati, siamo partiti da un Oscar, quello alla carriera che l'Academy Award di Hollywood assegna a Ennio Morricone nel 2007. Ennio dal palco ringrazia tutti i registi che l'hanno aiutato a diventare grande. Veramente voglio ringraziare anche i miei registi, i registi che mi hanno chiamato con la loro fiducia a scrivere le musiche del loro film. Veramente io non sarei qui se non per loro. Tra questi registi, il più importante è quello il cui destino si intreccia a quello di Ennio Morricone nel 1963. Le loro vite si erano già incrociate qualche anno prima, addirittura sui banchi della scuola elementare. E abbiamo ormai imparato che la sorte, quando agisce e interviene, può cambiare tutto in un secondo. Il nostro secondo personaggio, naturalmente, è Sergio Leone. Sergio Leone. Non tutti forse sanno che Sergio Leone è figlio d'arte. Sua madre, Bice Valerani, è un'attrice. Suo padre, Vincenzo Leone, è un regista italiano dell'età del muto, noto con lo pseudonimo di Roberto Roberti, che gira tra il 1918 e il 1921 18 film, interpretati da Francesca Bertini, grande diva del muto. È grazie a lui che Sergio prende la strada del cinema, firmando il suo primo lungometraggio nel 1961, Il Colosso di Rodi. Naturalmente, un colossal storico in costume. Sul set di Il Colosso di Rodi, Leone dimostra tutto il suo carattere in uno scontro duro con quello che era stato inizialmente scelto come attore protagonista, l'americano John Derek. Lo racconta un grande amico di Sergio Leone, Carlo Verdone. A un certo punto Leone si arrabbia, gli va dietro e gli fa: a John, allora il regista qua sono io, va bene, tu sei l'attore. Se io ti dico che la mattina devi venire a barba, tu vieni con la barba. Se io dico che un giorno mi piaci senza barba, tu te levi la barba. Se un giorno te voglio vedere con mezza barba, tu vieni con mezza barba. Hai capito? John Derek se ne andò via, andò a parlare con il produttore e disse: questo ragazzo non ha nessun talento, lo faccio io il regista, è troppo presuntuoso. Successe un casino. Leone diede le dimissioni, disse: o lui o io. Ci fu una grande causa, però gli attori del film si coalizzarono con Sergio Leone, John Derek fu preso e cacciato via. Leone aveva già avuto a che fare con la macchina da presa, per caso, nel 1959, quando era subentrato al regista Mario Bonnard per Gli ultimi giorni di Pompei. Quando Bonnard abbandona per problemi di salute la direzione del film, Leone prende il suo posto e porta a termine il suo primo peplum. Inoltre, la sua gavetta vanta un episodio di grande importanza e di grande rilievo. Nel 1948 è aiuto regista di De Sica in Ladri di biciclette, in cui fa anche una piccola comparsa nei panni di un prete, e dirige la seconda unità nella famosa corsa delle bighe di Ben-Hur. Dopo Il Colosso di Rodi, Leone vorrebbe girare un altro peplum, Le Aquile di Roma. Tuttavia la visione di un western come I Magnifici Sette lo ha profondamente influenzato e inizia a contemplare l'idea di virare verso cowboy e pistoleri. Cerca il soggetto giusto e le idee vincenti. Voglio dire, il western è l'ingenuità di un fanciullo, riproposta in un adulto, diventa infantilismo. Però non è detto che l'adulto non debba rimanere affascinato dall'ingenuità del fanciullo. E secondo me ha l'obbligo di riproporla, questa ingenuità, naturalmente in maniera più adulta, in maniera con mezzi più avanzati, più, e di riprodurre che cosa? La realtà. Cioè è la realtà dell'ingenuità, che mi sembra la cosa più sacrosanta da difendere. Without me, society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Le idee giuste per il western arrivano sotto forma di due incontri decisivi. Il primo è con un film giapponese. Mentre Leone è al lavoro sulle proprie idee, che cerca di trasferire dal peplum al western, in un cinema poco distante dal suo studio danno La sfida del samurai di Akira Kurosawa. Leone, su suggerimento di un amico, va a vederlo e ne rimane folgorato. Il secondo incontro è quello decisivo per il cinema di Sergio Leone, per la storia del western e per l'intera storia del cinema. Avviene quando Leone va alla ricerca di qualcuno che scriva la musica per il suo film. Quando inizia a setacciare vari musicisti, il regista italiano non ha la coscienza che ciò che sta per fare è in realtà il passo decisivo per il successo del suo cinema. Racconta questo episodio il suo biografo, Christopher Frayling. È stato il produttore del film, Franco Palaggi, a suggerire a Leone di prendere in considerazione Morricone come compositore per le musiche del film. A quel punto Leone si ricordò che erano stati insieme alle elementari, una coincidenza incredibile. Solo che i due western che Morricone aveva musicato, Gringo e Le pistole non discutono, erano film che Leone detestava e di cui detestava anche la colonna sonora. Durante un incontro tra di loro, però, a casa di Morricone, il musicista mise sul giradischi un brano che aveva composto per il cantautore Pete Tevis e Leone disse: ecco, è questo che voglio. Leone e Morricone erano compagni di scuola. Allora di certo non potevano sapere che avrebbero cambiato la storia del cinema. Dopo anni si ritrovano per un casuale suggerimento di un produttore. Lo stesso produttore che si imbarca con poca convinzione nella produzione del primo western di Leone aveva prodotto i primi due western di Morricone. Una coincidenza straordinaria che porta, non a caso, a un altro esito straordinario. Mi chiese di prendere quell'arrangiamento, l'idea dell'arrangiamento, e metterci sopra una melodia. Così feci. Quello è il pezzo del fischio, il pezzo del pugno di dollaro. Sergio ha scoperto per pura intuizione che uno degli elementi fondamentali del cinema è anche un elemento fondamentale della musica, cioè la temporalità, il tempo. Rispettando questo elemento comune delle due arti si provoca senza errore un matrimonio perfetto. Lui l'ha intuito in maniera straordinaria e questo ha portato dei risultati espressivi rari. Il film ha un costo irrisorio, meno di 120 milioni di lire, ma ottiene un successo incredibile, anche grazie alla straordinaria prova dei due protagonisti, Jean-Marie Volonté e Clint Eastwood, lanciato da Leone, che l'aveva visto nella serie televisiva Rawhide. Leone dice di Eastwood: ciò che più di ogni altra cosa mi affascinò di Clint era il modo in cui appariva e la sua indole. Nell'episodio Incident of the Black Sheep, Clint non parlava molto. Ma io notai il modo pigro e rilassato con cui arrivava e, senza sforzo, rubava a Eric Fleming tutte le scene. Quello che traspariva così chiaramente era la sua pigrizia. Quando lavoravamo insieme, lui era come un serpente che passava tutto il tempo a schiacciare pisolini 20 metri più in là, avvolto nelle sue spire, addormentato nel retro della macchina. Poi si srotolava, si stirava, si allungava. Quando gli fu offerto il secondo film, per qualche dollaro in più, mi disse: «Leggerò il copione, verrò a fare il film, ma per favore ti imploro solo una cosa, non mi rimettere in bocca quel sigaro». E io gli risposi: «Clint, non possiamo tagliare fuori il sigaro, è il protagonista». Per un pugno di dollari fu il primo film di cui fui il protagonista. Mi fu data grande libertà nella creazione del personaggio. Il valore aggiunto del film era la presenza di Ennio Morricone, che non era la prima colonna sonora, ma sicuramente quello fu il suo primo successo. Fu uno strano intreccio di destini. Il primo successo per me, il primo per Sergio Leone e il primo per Morricone. Seguiremo gli sviluppi di questo straordinario incrocio di destini tra poco, qui a Destini Incrociati. Destini incrociati. Esistono suoni, accordi, melodie in grado di evocare istantaneamente immagini, situazioni e atmosfere. Prendiamo questo suono. Si tratta di un theremin, il più antico strumento elettronico della storia della musica. Usato in decine di film di fantascienza, è impossibile, ascoltandolo, non pensare a marziani e a dischi volanti. Su questo suono medievaleggiante sicuramente vengono alla mente storie di dame, di cavalieri e di imprese epiche. Tra le musiche e le atmosfere sonore più evocative, oggi annoveriamo indubbiamente anche questo suono. Perché è così scontato associare un giro di chitarra e un fischio costruiti su questo giro melodico al western? Come si è infilata nel nostro immaginario questa associazione tra musica e immagini? Oggi Destini Incrociati ha risposto proprio a questa domanda, raccontando lo straordinario incontro tra Sergio Leone, il regista che ha reso celebre il western all'italiana, ed Ennio Morricone, che all'universo narrativo di Leone ha regalato uno degli elementi più caratteristici, la musica. Poco dopo il grande successo di Per un pugno di dollari, Leone gira con un budget decisamente più consistente per qualche dollaro in più. È un altro straordinario successo, sancito ancora una volta dalla musica di Ennio Morricone. Sergio mi chiede di fare dei temi molto semplici, recepibili con facilità dalla gente senza complicazioni, quindi dei temi tonali, facili, popolareschi. Questo porta come risultato che lui si innamora della musica, perché dopo gli è piaciuto il pianoforte, sicuramente con l'orchestrazione, visto che io suono così male il pianoforte, lui con l'orchestrazione la capisce meglio e la ama di più e la ama molto. Non solo io, ma attori anche della classe di De Niro, che sono attentissimi alla presa diretta, di fronte a recitare una determinata scena emotiva, particolare, se vuoi sentimentale, e con la musica sotto, mi hanno detto: guarda, a noi non ce ne frega niente della presa diretta, io tengo la musica sotto perché questo mi aiuta in modo particolare, quindi questo pezzo lo doppiamo dopo. Il terzo film a cui i due collaborano è sempre un western, Il buono, il brutto e il cattivo, la cui colonna sonora entra di diritto nella storia del cinema. Dopo Il buono, il brutto e il cattivo non avrei voluto fare più western, perché avevo chiuso quel tipo di leggenda, quel tipo di storia, e avrei voluto fare C'era una volta in America, il film che sto finendo adesso. Se non che, dato che i successi, ecco, tutti sono pronti a non perdonarli, mentre invece l'insuccesso sì. Quando io andai in America, la prima cosa che mi dissero: lei ci faccia un altro western e dopo le facciamo fare C'era una volta in America, ma per ora ci deve fare un altro western. E allora a questo punto nacque l'esigenza di fare un film che era completamente differente dagli altri tre, e nacque l'esigenza di una nuova trilogia che è nata proprio con C'era una volta il western. Si è svolta con Giù la testa e finisce con C'era una volta in America, che sono i tre periodi che toccano l'America e le Americhe, se vogliamo. Anche per questi primi film americani, Morricone è al fianco del regista romano, così come gli è accanto per il suo straordinario monumentale ultimo film, C'era una volta in America. Ma il mio film finisce nel 68 perché, essendo una storia sulla nostalgia, sul passato, e quasi prustiana, quasi la ricerca del tempo perduto di un gangster, ho voluto significare queste due epoche che per me sono determinanti per l'America, cioè il 22, che è l'epoca dell'anti-repressione, il 33, il proibizionismo, e poi c'è un lasso di tempo che è oblio, che è un vuoto quasi pneumatico, per arrivare al 68, che è la data della grande contestazione, ma non è un fatto legato alla politica. Nel frattempo Morricone inizia a collaborare con tutti i più grandi registi di cinema internazionale: Bertolucci, Pasolini, Pontecorvo, Argento in Italia, e poi all'estero con Terence Malick, John Borman, Brian De Palma. Un successo dietro l'altro, con 5 nomination agli Oscar e nessuna statuetta. Anche Sergio Leone raccoglie pochi riconoscimenti ufficiali. La critica talvolta lo snobba, ne ammira la maestria tecnica, ne critica l'eccessiva predilezione per la spettacolarità della messa in scena. Gli rimprovera scarse pretese intellettuali. Sergio va avanti imperterrito, come racconta Carlo Verdone. C'era una volta in America un film indubbiamente grandioso e malinconico. È un film che vorrebbe anche forse fermare il tempo. È un film sui ricordi dell'adolescenza del regista. Mentre sta progettando il suo nuovo film, un film di guerra sull'assedio di Stalingrado, Sergio Leone viene colpito da un attacco cardiaco. Il film avrebbe dovuto raccontare le pagine più drammatiche della guerra in Russia e una storia d'amore tra un giornalista americano e una ragazza russa, in un ideale messaggio di pace fra le due superpotenze. L'Unione Sovietica aveva già concesso alla casa di produzione del regista un'autorizzazione di massima per le riprese sul suolo sovietico e la possibilità di utilizzare l'Armata Rossa per le scene di massa. Ma il 30 aprile del 1989 tutto sfuma. Sergio Leone muore. Io ho sempre pensato una cosa, che Sergio Leone ed Ennio Morricone fossero un po' come Lennon e McCartney, una coppia che non sbagliava mai. L'Oscar che quella sera del 25 febbraio 2007 Ennio Morricone riceve dalle mani di Clint Eastwood ha un sapore speciale. Sul palco del Kodak Theater ci sono due uomini che sono stati lanciati da Per un pugno di dollari. Rendono il giusto omaggio a Sergio Leone. Con la sua aria burbera e il suo sorriso bonario, è il grande assente della serata. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.